begins. Each day climbs a line for the half dozen limbs. Violent backlash. Bombs were falling, turned into a bloodbath. Occupation of liberation. Nation building, faced over by desperation. Trapped in this wire fire. Fast battalion, good fuel on the fire. See a blood flood, the occupied land. While the village and police were in the sand. And the presidential sandbox is out of harm's way. Buonasera a tutte, tutti voi che siete in ascolto per questa puntata di giovedì 28 marzo 2024 di Zardins Magnetics. Questa sera abbiamo un programma, come sempre, molto, diciamo, carico. Vi propongo, insomma, come sempre, varie cose. Vi proponiamo, come sempre, varie cose, magari non sempre interessano a tutti, ma l'intento è sempre quello di non annoiarvi, di proporre qualcosa. Sì, ho appena detto che non interessa, ma però intendevo che spinga, ecco, all'andarsi a cercare ognuno, sì, in chi ascolta, ecco, altri pensieri, altre riflessioni, altre considerazioni e altre prendere, ecco, iniziative in merito. Io quindi, come ho già detto, faremo tre blocchi, ecco, previsti stasera, insieme, come sempre, a varie proposte musicali al 98% di musica autoprodotta. E la prima è un po' informativa, di aggiornamenti vari, ecco, di notizie, chiamiamole, di relative all'attualità, e sia repressive sia che riguardano la complicità nella fornitura, ecco, negli aiuto agli stati come quelli israeliano. E la seconda che vi proponiamo è un ricordo di Aaron Bushnell, un militare che oltre che diciamo è andato oltre la diserzione, si è autoimmolato, ecco, si è proprio dato fuoco davanti a un'ambasciata, all'ambasciata israeliana di Washington DC. La terza, diciamo l'ultimo blocco è una rilettura di un vecchio, abbastanza vecchio testo del 2015-2016, che si chiamava Califfato Barbarie. Ecco, andiamo così un po' a risollevare questioni. Sì. Ecco, anche perché è tornato fuori, ecco, questo discorso dello Stato Islamico, del califfato, appunto. E quindi torniamo un attimo a proporre, ecco, qualcosa relativamente a quella situazione là. Ecco, questo è un po' il sommario di stasera. Come sempre vi ricordo che Zardins Magnetics è una trasmissione che va in onda tutte le settimane, tutti i giovedì, su Radio Onde Furlane, emittente, sì, radio storica, ecco, che ci ospita, con sede a Udine, e poi viene rimbalzata anche da Radiazione, che è una web radio nostra amica. Ed è, ripetiamo ancora, insomma, va sempre in onda dalle 20 alle 21.30 del giovedì, e invece in replica, appunto, il venerdì dalle 17 circa. Per riascoltare esiste anche un, per riascoltare tutte le puntate esiste anche un nostro blog, che è zardinsmagnetixradio.noblogs.org, dove sono presenti, appunto, tutte gli audio, con anche i riferimenti delle varie puntate. Potete anche iscrivervi al canale Telegram, che si chiama Zardins, e dove, appunto, se vi iscrivete arrivano anche le anticipazioni, così le promozioni delle varie puntate. Rimane ancora il contatto nostro, che è quello della posta elettronica, è liberetutti@autistiche.org. Dunque, dicevo prima di andare a leggervi alcune notizie. Una notizia negativa per i compagni trentini: Cassazione, confermate le condanne per la manifestazione a Rovereto contro Salvini. Cosa è successo? Praticamente questa manifestazione era stata fatta nel febbraio 2018 durante il tour elettorale di Salvini, era stato contestato, erano andati a processo vari compagni, all'appello il tribunale di Rovereto aveva condannato, insomma, vari compagni per un complessivo di 12 anni di carcere. Cioè voleva dire che per lo Stato una manifestazione, diciamo anche combattiva e organizzata in una certa maniera, contro una manifestazione contro un politico razzista è giuridicamente più grave di un'attentata strage e dei ferimenti del fascista Luca Traini, candidato della Lega per Salvini, a Macerata, sempre, anzi, 8 giorni prima di quella manifestazione, appunto. Vado a leggervi. Il 21 marzo la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza d'appello nel processo per la manifestazione contro Salvini del febbraio 2018 a Rovereto. Di conseguenza sono state confermate le condanne di Giulio, 2 anni e 1 mese, di Massimo, 2 anni e 4 mesi, quella contro Stecco, 2 anni e 4 mesi, era già diventata definitiva lo scorso settembre. Come abbiamo già detto e scritto, in ogni caso nessun rimorso, Macerata grida ancora vendetta, appunto l'altro comunicato, in ogni caso nessun rimorso, che era appunto una presa di posizione dopo la sentenza di appello nel 2021, l'11 febbraio 2018, ricostruiva un po', ecco come avevo già anticipato, l'11 febbraio 2018 il tour elettorale di Salvini prevedeva una tappa a Rovereto, quel comizio arrivava 8 giorni dopo che il fascio leghista Luca Traini, ex candidato del Carroccio, aveva sparato contro chiunque avesse la pelle nera per le strade di Macerata, un'infamia indelebile. Nonostante il risicato preavviso, ad attendere il futuro ministro dell'interno c'era un centinaio abbondante di contestatori. Nelle prime file ci sono scudi di plexiglass, caschi e bandiere. I concetti espressi sugli striscioni, negli interventi al megafono e nelle scritte sui muri sono piuttosto semplici: Salvini mandante di Traini o Traini soldato di Salvini, e Macerata va vendicata. Gli scontri con la polizia che impedisce ai contestatori di avvicinarsi alla sala pubblica sono la logica conseguenza. Per certi concetti giusti e semplici si paga spesso un prezzo. In seguito a quella manifestazione, i 12 compagni, 12 appunto, erano stati denunciati per vari reati. Ieri, si intende, nel 2021, il tribunale di Rovereto ha emesso la sentenza, una compagna è condannata a 5.000 euro di multa, altri 4 pene di 2 anni, dai 2 anni ai 2 anni e 2 mesi, ai 2 anni e 4 mesi di carcere. Una compagna ha preso 2 anni e 4 mesi per aver parlato al megafono. Tenuto conto che il processo si svolgeva con rito abbreviato, le condanne complessive superano i 12 anni di carcere. Il che vuol dire che per la giustizia di Stato quella manifestazione è giuridicamente più grave dell'attentata strage e dei ferimenti di Macerata. Sparare a caso contro persone di colore è ufficialmente meno grave che scontrarsi con la polizia schierata a difesa di chi ha giustificato quegli spari. Non c'è che dire, mentre i mass media farfugliano, i tribunali chiariscono bene i concetti. Cos'altro aggiungere? Nulla di originale, in ogni caso nessun rimorso. Lo spirito che animava chi è sceso in strada quell'11 febbraio ci è rimasto nel cuore. Allora, cambiamo così argomento. Notizia di oggi cioè notizia di questi giorni, scusate, è emerso finalmente l'ammissione del governo Meloni che sono state vendute delle armi all'Ucraina all'insaputa delle Camere. In seguito a un'interrogazione parlamentare di un senatore dei 5 Stelle, il ministro Crosetto, Question Time, ha confermato il dato di un valore di 417 milioni di euro di ricavi, diciamo, di incasso per aver venduto armi al governo dell'Ucraina. La questione, insomma, non è proprio così banale, nel senso che fino ad oggi il governo aveva negato di aver autorizzato le vendite. E, invece, appunto, ha una precisa richiesta, insomma, formalmente corretta, e il ministro è stato obbligato a ammettere che, secondo lui, la fornitura di armi a Kiev, che esercita il diritto all'autodifesa prevista dall'articolo della Carta dell'ONU, tale della Carta dell'ONU, non è vietata dalla legge italiana 185 del 90, che è quella che regolamenta, cioè che, diciamo, ordina le modalità di cessione di armamenti e equipaggiamenti militari. Lui si riferiva al fatto che l'interdizione non vale per l'invio di materiale militare ai paesi che si trovano a difendersi da un'aggressione. Però il senatore del 5 Stelle ha detto: questo Parlamento nel 2022 ha semplicemente derogato alla legge 185, che vieta la vendita e la cessione di armi a paesi belligeranti e a paesi in conflitto. Questa deroga fu fatta proprio per consentire, che era già una forzatura, consentire all'Ucraina il suo legittimo diritto di difendersi, puntualizzando il senatore che la questione era politica, nel senso che il Parlamento intendeva essere informato, e quindi essere anche, cioè, il resto del oltre al Parlamento, vuol dire che fosse di dominio pubblico, e essere informato sulle cessioni e anche sulle vendite. Non è che loro dovevano informare solo sulle cessioni e le vendite farle sotto banco, perché pretende rispetto della legge eccetera 185. Il parlamentare ha concluso: per questa norma non è possibile fare questo tipo di cessioni, cioè neanche cessioni. Cosa vuol dire? Praticamente, diciamo, le cessioni riguardano materiale, diciamo, armamenti, fra virgolette, ritenuti obsoleti, non più che l'esercito o che le altre forze armate non ritengono utilizzare, mentre invece è evidente che la vendita riguarda armamenti, sì, allo stato dell'arte, quindi. Inoltre c'è, appunto, tutta una serie di altre questioni, a parte questo bypassamento della legge 185. È stato messo in piedi un comitato interministeriale per gli scambi di materiale e armamento per la difesa, composto dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero dell'Interno, la Difesa, eccetera, che bloccano il Ministero degli Esteri pone il veto, diciamo, sulla vendita, sull'export di armi. Ecco, quindi, e inoltre non in Parlamento questa cosa qua non viene informato, eccetera, eccetera. Insomma, trovate, ecco, non vengono più date le informazioni necessarie, insomma, non sono tenuti in questa relazione, nella relazione che il Presidente del Consiglio invia alle Camere, non sono più tenuti a mettere le informazioni necessarie sull'import-export dell'industria di armi. E poi è stata prevista l'abrogazione dell'obbligo di riferire sulle attività anche delle banche che concedono, appunto, finanziamenti in relazione all'export di armi, in modo che, appunto, nessuno poi può andare a puntare il dito su questi qua. Facciamo una pausa musicale. Yeah. Allora, nonostante appunto che le informazioni, le notizie relative a chi dà il sostegno ai massacratori non vengono diffuse, diamo però noi la notizia reperita in rete, martellate di un'azione diretta, martellate scritte contro l'agenzia Remax per la sua collaborazione con il colonialismo israeliano. Nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 marzo siamo andati a visitare l'agenzia immobiliare Remax di Via Noe a Milano, danneggiandone le vetrine con scritte martellate. Questa società, insieme a molte altre, fa affari con Israele, lucrando sull'espulsione dei palestinesi dalla terra e dalle case che abitano, case che Remax rivende e affitta ai coloni israeliani, ricavandone grossi profitti. Dopo quasi sei mesi di massacri e orrori a Gaza e in Cisgiordania, non vogliamo dimenticare che i complici di questo genocidio sono anche a casa nostra. Ci auguriamo che le martellate sulle loro vetrine possano indicare anche ad altre persone che gli affari di Remax grondano del sangue dei palestinesi e che siano sempre più numerose le azioni contro chi si arricchisce collaborando con Israele. Palestina libera, tutti liberi. Sì, una piccola azione, fra virgolette piccola, nel senso comunque sì, necessita comunque di un minimo di saperi, anche organizzarsi per fare un'azione del genere. Comunque ecco, questo succede, piccole cose che succedono anche in Italia. Altre due aggiornamenti che vengono dal CALP, dal collettivo autonomo dei lavoratori portuali di Genova, che ha denunciato un nuovo sbarco di mezzi militari nel porto ligure, arrivati a bordo di una delle navi della compagnia saudita Bari e diretti a Camp Derby. Secondo The Weapon Watch, l'osservatorio sulle armi nei porti europei mediterranei è la prima volta che questi arsenali galleggianti portano armi nel nostro paese, in quanto di solito si è sempre trattato di soste prima di ripartire per altri paesi. Camp Derby, situato nella pineta tra Pisa e Livorno, è il più grande deposito di materiale bellico al di fuori degli Stati Uniti. Il passaggio della nave Bari Aba, che consegna armi agli Stati Uniti sul territorio italiano, segna in maniera chiara un altro passo nella militarizzazione globale, ha comunicato. Diciamo che l'impiego della flotta Bari sotto bandiera saudita nella logistica militare USA, scrive l'osservatorio, sancisce che l'alleanza prosegue così. Comunicato, l'alleanza di interessi tra gli Stati Uniti e la monarchia di Riyadh è ormai un'alleanza militare attiva, non più una mera fornitura di materiale per la difesa. Si vede anche appunto nel Mar Rosso, questo è quello che succede, insomma, in funzione anti-Houthi. Un'altra importante messa a fuoco di questa vicenda: Camp Derby è la base militare che dà il via alla presenza permanente degli Stati Uniti sul territorio italiano nel 1951. La sua esistenza è il frutto di un accordo bilaterale di collaborazione militare che prevedeva l'aiuto statunitense per ricostruire il sistema di comunicazione italiano in cambio di un grande pezzo di terreno tra Pisa e Livorno, dove sarebbe sorta proprio questa base. Si tratta di una delle più grandi basi degli Stati Uniti in Europa, con circa 30 unità tra aviazione e esercito, e qui adesso descrive appunto l'839esimo battaglione trasporti, il battaglione attrezzature da combattimento, sotto il controllo del Military Traffic Management Command, ha il compito di gestire questo battaglione e tutti i porti marittimi di supporto degli Stati Uniti nel teatro mediterraneo. Il Combat Equipment Battalion ha la missione di supporto nel mantenere, immagazzinare e riparare tutti i veicoli militari. Camp Derby è il più grande deposito di munizioni statunitensi al di fuori degli Stati Uniti, ospitando circa 125 bunker che immagazzinano svariati tipi di munizioni per i comandi dell'esercito e dell'aeronautica degli Stati Uniti in Europa. Inoltre, Camp Derby è il quartier generale dell'Army Material Command Europe. La base ospita circa 2.000 persone tra personale non militare e le loro famiglie, mentre sono circa 350 i militari presenti. L'economia di guerra si muove intorno a noi in modo implacabile, denuncia il CALP, che invita a non sottovalutare i dettagli, preannuncia una nuova mobilitazione. Quindi in sintesi, mentre in passato queste navi da trasporto di materiali semplicemente facevano tappa nei porti sul Mediterraneo, come Genova ad esempio, e questa volta appunto è stata documentata il trasporto, è stato documentato il trasporto e lo scarico appunto lo dice anche, che sono con tutta probabilità veicoli tattici leggeri Oshkosh LATV dell'esercito, tattici leggeri dell'esercito americano, cioè è uguale insomma qualunque roba, però sono mezzi che loro scaricano dalla nave e li mettono appunto in questa loro base che hanno tra Pisa e Livorno. Ancora un aggiornamento per questo blocco, diciamo notizia, aggiornamento, è stato, insomma, leggo appunto dai canali dell'Assemblea Popolare Busto Arsizio, è stato, insomma, c'è in programma per il 4 aprile 2024 un presidio a una sede del comando di pronto intervento NATO di Solbiate Olona, che è vicino, insomma, da quelle parti, in Lombardia. È interessante il comunicato perché appunto ripercorre varie questioni, insomma mette in fila varie questioni che si danno sempre per scontate, tipo che, non so, intanto la NATO è stata creata il 4 aprile del 49, 6 anni prima della costituzione del patto di Varsavia, poi dopo nel 1989, dopo la caduta del muro di Berlino, tutti i leader dei maggiori paesi della NATO avevano promesso a Mosca che l'Alleanza Atlantica non sarebbe avanzata verso est neppure di un centimetro. E che intanto i numeri di paesi aderenti alla NATO sono quasi raddoppiati dal 1999, perché sono nel 2022 appunto sono già 30. Sì, appunto 32, no, 30 nel 99, adesso sono 31 e tra poco 32 con l'ingresso della Svezia. Sì, cioè ecco, una cosa che è importante, che questa sottolineare, la NATO dal 1991 ha manipolato le risoluzioni ONU, ad esempio quella sulla responsabilità di proteggere del 2011, attaccando la Libia, sì, appunto nel 2011 ha manipolato questa risoluzione, attaccando la Libia, assumendo il comando poi nel 2003 invece della missione ISAF in Afghanistan. Sono due fatti distinti, però quando ha dei motivi l'ONU, la NATO appunto, che di solito è sorda, come naturalmente ascolta appunto, strumentalizza queste risoluzioni per appunto andare a mettere piede su situazioni dove appunto dove le cose non gli stanno bene. La NATO ha i tradizionali tre domini operativi, aria, terra, mare, ha aggiunto quello cibernetico, quello spaziale e quello sommerso, per i fondali marini e oceanici dove transitano cavi che permettono il 90% delle transazioni transatlantiche, i tubi per gli approvvigionamenti energetici necessari al sostentamento dell'economia e delle società europee, e dove si va sviluppando la ricerca scientifica volta al futuro sfruttamento delle risorse minerarie dei fondali oceanici. Punta sul controllo delle nuove tecnologie emergenti e dirompenti, dall'intelligenza artificiale alle tecnologie quantistiche e biotecnologie cognitive. Ecco, si salda così qui anche tutto il discorso del controllo digitale che appunto la NATO sta spingendo. Poi appunto c'è un paragrafo sul come vengono anche attirati anche gli studenti su queste per portarli, per indottrinarli, vengono portati in visita a queste strutture, come appunto il comando delle forze di pronto intervento NATO di Solbiate Olona, dove si svolgerà il 4 aprile 2024 un presidio contro i 75 anni della NATO. Piacere chi non merita di avere tanto potere su di te. Chi non merita di avere potere su di te. Adesso analizza i tuoi vincoli. Esercita la tua forza di volontà. Analizza i tuoi vincoli. Potere su di me. Chi non merita di avere potere su di me. Adesso analizzo i miei vincoli. Esercito la mia forza di volontà. Analizzo i miei vincoli. Mi rendo libero. Analizza i tuoi vincoli. Esercita la tua forza di volontà. Analizza i tuoi vincoli. We'll be right back. È un saluto anche da parte mia, ci stiamo ascoltando Gli Affluente da uno split con i Feccia Tricolore, che questo disco è uscito nel 2014, e mentre durante gli interventi vocali, orali, abbiamo ascoltato dei brani tratti da una compilation uscita in Venezuela, che si chiama El Libertario, e continuiamo ad ascoltare Gli Affluenti. Strade diverse, e non è crescere in maniera differente. Ti piacerebbe entrarti nella testa, da vedere da vicino i tuoi pensieri, vorrei cercare di capire cosa resta di ciò che eri. Bene, sempre Zardins Magnetics per questa puntata di giovedì 28 marzo. Passiamo ad altro, passiamo al discorso sullo Stato Islamico, su questo califfato. Allora, io ho scelto questo testo che era uscito nel appunto abbastanza anni fa, alla fine del 2015, era stato tradotto all'inizio del 2016 a cura del Lato Cattivo, pubblicato, stampato dal centro di documentazione Porfido. Si intitola Califfato e Barbari, e l'autore si chiama Tristan Leoni, francese. Io dico solo due o tre parole prima di andare un momento al contenuto di questo testo. Forse, anzi sicuramente, i toni di questo saggio sono disturbanti per certi aspetti, perché era stato scritto, secondo me, in polemica aperta, ecco, con una ondata sicuramente esagerata di emotiva, di soprattutto insomma di così, con una dominante emotiva di adesione, insomma, al movimento così del che si sintetizzava nel paradigma democratico e femminista del progetto appunto del Rojava, progetto di stato, di confederazione, più che appunto di abbattimento di stato e di confederazione, appunto dove era la società il nucleo di questo progetto, appunto, che era in piedi nel Kurdistan occidentale. I toni, dicevo, sono fastidiosi, erano sicuramente più fastidiosi in quel momento. Riletti oggi sono anche cioè a me fanno anche polemicamente ridere, ma andiamo, io volevo cercare di andare oltre queste esagerazioni di questo Leoni, perché secondo me contava la diciamo l'analisi, un punto di vista un po' più, ecco, mettendo da parte discorso valoriale di chi appunto può ascoltare questa trasmissione e ha già magari, forse non è detto, impostate certe, ecco, certe un mondo di valori, e metterlo da parte e andare a analizzare quello che era dal punto di vista degli uomini e delle donne che hanno aderito al califfato, di fatto quello che poteva essere la loro visione. Ecco, questo detto in sintesi, un po' sulla linea anche di quello che era l'idea anche di progettualità, di partecipazione alle lotte intermedie, sempre, che è sempre stato, insomma, un po' la bussola dell'insurrezionalismo, ecco, anarchico. Allora, un quadro storico-geografico: si parla quindi dello Stato Islamico, del cosiddetto ISIS, Daesh o appunto Califfato. Inizialmente è un'entità, allora era una nuova entità territoriale, uscita così dalla guerra civile che era scoppiata in Siria nel 2011 in seguito alle proteste delle primavere arabe. Nel 2013 avanza questo Stato Islamico, questo califfato avanza in Siria e prende grosse porzioni di territorio, no? 29 giugno 2014 la proclamazione del califfato a Mosul. Ecco, l'idea un po' di questo opuscolo era far vedere come, oltre agli sgozzamenti e alle tagliatori di teste, alle efferatezze che quotidianamente quell'epoca, in quegli anni, venivano amplificate e appunto ossessionavano lo spettatore europeo, comunque occidentale, appunto i media proponevano questa visione, ecco, dello Stato Islamico, quindi emotivamente Stato Islamico veniva associato a organizzazione terroristica, passava in secondo piano il discorso sullo Stato. Invece su questo opuscolo, che è basato su vasta bibliografia per lo più francese, in lingua francese, voleva dimostrare come fosse invece ci fosse un progetto fondazione di uno Stato e di un ritorno al califfato, cioè un ritorno al Medioevo, e di come questa idea di Medioevo fosse avesse delle connotazioni negative solo appunto in un quadro così un po' relativistico, solo in una ottica storica, che è quella eurocentrica, ecco, per riassumere. Invece, ecco, c'era tutta una struttura amministrativa, tutto un progetto di intervento pubblico dello Stato nella vita quotidiana. Vado a leggere, comincio con degli estratti. L'IS amministra un territorio di 300.000 km quadrati, popolato da un numero di abitanti compreso tra gli 8 e i 10 milioni. Esso non ha tardato a riordinare o trasformare le istituzioni del territorio che controlla. Queste ultime si strutturano attorno a un'amministrazione centrale ridotta, il califfo coadiuvato da 7 ministri, un consiglio di guerra e 7 governatori provinciali, ciascuno assistito da una shura, organismo assembleare composto da religiosi. Le due grandi regioni in cui è suddiviso il territorio dell'IS, Siria e Iraq, dispongono ciascuna di un'assemblea consultiva composta da imam, predicatori, notabili delle città e capi tribù, dove non tutte le voci hanno lo stesso peso, ma dove si cerca comunque il consenso. La democrazia, invenzione occidentale e idolatra, viene rifiutata e il potere legislativo considerato inutile, basta la sharia. Raqqa, 200.000 abitanti, è di fatto la capitale amministrativa, Mosul, 2,5 milioni di abitanti, la capitale religiosa. Quando si impadronisce di un territorio, l'IS affida la gestione del potere a qualche attore locale o lo mantiene al suo posto se lo considera affidabile. Capi tribali, capi clan, leader di quartiere, a condizione che facciano giuramento di fedeltà esclusiva all'IS. Impieghino unicamente il suo emblema e rispettino le sue ingiunzioni in materia di costumi. Quanto al fatto che l'amministrazione del califfato si impone freddamente attraverso la violenza e l'arbitrio, questa non è una buona ragione per privarla dell'appellativo di Stato, al contrario. L'IS è uno dei regimi più repressivi in una regione piuttosto ferrata in materia, ma soprattutto è il solo che faccia un tale sfoggio di atrocità. Per delle società occidentali che hanno conosciuto un processo di debrutalizzazione, non può trattarsi che dell'opera di barbari, cioè di gente che non parla la nostra lingua. Tuttavia, nelle zone che controlla, l'IS ristabilisce una forma di Stato di diritto e in tal modo risponde alle aspirazioni di attori locali. In Iraq ha scacciato le truppe sciite, considerate dalla popolazione un abominevole esercito di occupazione, un checkpoint army, la cui presenza era furire soltanto di estorsioni, violenze, stupri, racket, corruzione generalizzata e insicurezza. In una città come Mosul, dove regnano tangenti e clientelismo e dove la miseria di massa è giustapposta in inspiegabili sacche di prosperità, le prime misure prese dal nuovo regime, altamente simboliche, poco onerose e molto amplificate dai media, sono state l'espulsione e l'esecuzione pubblica dei corrotti. Gli abitanti constatano che è incontestabilmente un miglioramento in rapporto alla situazione precedente, che era divenuta insostenibile. From the humanization to arms production for the benefit of a nation or its destruction. Power is power, it's the law of the land. Those who live for death will die by their own hands. Life is no ideal if you can come to terms, reject the system which dictates the norm. From dehumanization to arms production, for the benefit of a nation or its destruction. It's your choice, peace or annihilation. Annihilation is to what we should be at. After the end of war, the dream of death. Annihilation, annihilation, annihilation. Destruction, destruction, destruction. Streets are on fire, death in our way. Stars of the truth, fire and rain. You go on preaching, unleash the sun up. While you're paying for sanction. This is murder, annihilation, annihilation, annihilation. Destruction, destruction, destruction. Streets are on fire, death in our way. Stars of the truth, see this before. Annihilation is one. That means the end. I'm against that war to end our war seat. Extreme offense. You got the people laughing in their mouth. You wanna jump, don't save your life. Annihilation, annihilation, just the same. I'm the number, gonna fly away. Sempre Zardins Magnetics, sono le 21:03. Stiamo leggendo questo testo, Califfato e Barbarie, Tristan Léonie. Le strade delle grandi città dove la polizia scruta gli abiti dei passanti appaiono tuttavia brulicanti e chiassose. Le bancarelle e le botteghe ben fornite, l'attività commerciale al culmine. Non è il business che Lise desidera stravolgere, ma piuttosto la sua apparenza, la superficie, per adeguarlo alla volontà divina. Le giornate sono così ritmate, perturbate secondo alcuni commercianti, dalle 5 preghiere quotidiane. Ci sono infine agenti che regolano il traffico agli incroci, nuove targhe di circolazione per le automobili, un calendario lunare, eccetera. Lise rivolge anche un'attenzione tutta particolare al miglioramento e alla messa in sicurezza dell'approvvigionamento, così come a una riduzione dei prezzi delle derrate alimentari. Da qui il controllo dei mulini e dei forni, un tempo pubblici in Siria, mentre una neonata autorità per la difesa dei consumatori vigila sulle condizioni igieniche e sulla qualità dei prodotti. I Mutasibin controllano, cioè le guardie del morale, diciamo, controllano i prezzi nelle strade e nei mercati. Si può essere addirittura giustiziati per speculazione e accaparramento. Quando conquista una città, come tutti gli eserciti d'occupazione conseguenti, Lise annovera tra le sue priorità il ristabilimento dei servizi pubblici. I dipendenti delle aziende pubbliche e i funzionari sono invitati a rimanere al loro posto e viene assicurato loro, laddove necessario, il versamento dei salari, e con maggiore regolarità che sotto il regno di Nuri al-Maliki dell'Iraq. Lo Stato civile ritorna a funzionare, limitandosi a prendere atto dei cambiamenti intervenuti sul piano legale. Ad esempio, sì, anche qua ad esempio mi sembra l'unico commento che faccio, un cinismo esagerato, ad esempio l'autorizzazione al matrimonio delle bambine a partire dai 9 anni di età, oppure non l'ho capito, ecco. Lise si sforza di ricostruire le infrastrutture danneggiate dalla guerra, ma lancia anche nuovi progetti che vengono valorizzati dalla sua stampa: riparazione di ponti e di circuiti elettrici, creazione di linee di trasporto pubblico a prezzi calmierati, rimessa in funzione di un servizio postale, eccetera. Al momento della presa di Palmira, appena terminate le esecuzioni, Lise ha inviato dei tecnici per ristabilire la distribuzione dell'energia elettrica e le connessioni internet. I funzionari della città hanno ottenuto degli aumenti sul salario, e l'ospedale ha ricevuto un nuovo materiale medico. A Raqqa, scelta emblematica, il palazzo del governatore è stato adibito a ospedale. In alcune zone periferiche, talvolta abbandonate dai regimi precedenti, Lise ha potuto beneficiare di significativi effetti di contrasto in rapporto alla popolazione, finanziando campagne di vaccinazione e la costruzione di ambulatori, di pozzi o di scuole. Quindi ecco, era per cominciare a dare un'idea del fatto che i video delle esecuzioni erano una parte della propaganda dell'Lise veicolata da internet, e questa si è accompagnata a una componente sociale caritativa con sussidi, assegni familiari, fornitura di mense, diciamo, scolastiche o insomma sul lavoro, affitti calmierati, eccetera eccetera. Qui fa una specie di prima conclusione: costruire uno Stato facendo la guerra pressoché a tutte le potenze del pianeta è un compito tutt'altro che agevole. Ciò che abbiamo descritto è meno un quadro socio-economico dell'ESA a un istante T che lo schizzo di un processo il quale a grandi linee si estende dall'estate 2014 all'estate 2015, e durante questo periodo, che un giorno forse sarà ricordato come l'apogeo del califfato, che l'ESA si lancia nella costruzione di uno Stato, della sua amministrazione, e tenta di rilanciarne l'economia, pur garantendo alla popolazione un livello di vita accettabile. Ecco, poi dice sicuramente andrà, siccome tutti gli indicatori volgono al rosso, questa parabola sta scendendo, come poi si è visto adesso il califfato si è ritirato di nuovo e praticamente controllano il territorio tra il Tigri e l'Eufrate, insomma, dell'Iraq, grosso modo, dico, ecco, in maniera approssimativa. Ci domandavamo all'inizio perché funziona. Abbiamo visto che la sopravvivenza e l'espansione di questo regime non si spiegano soltanto con le sue capacità militari e poliziesche. Alcuni parlano addirittura di stato sociale, ma si tratta anche del fatto che il califfato non è soltanto banalmente uno stato. Esso non si accontenta di amministrare, ma pretende di trasformare il mondo, inaugurando una nuova era o preparandone l'avvento, un'era in cui evidentemente non si tratterà di abolire il lavoro salariato e la società mercantile, ma soltanto di rimodellarli alla sua maniera. Tutto deve cambiare perché tutto resti come prima, il Gattopardo, la facciata, la morale, i costumi, eccetera, vero, ma oggi per migliaia di abitanti della Siria, dell'Iraq e non solo, la speranza si chiama califfato. Decine di migliaia di giovani, soprattutto proletari, attraversano il pianeta per vivere o morire qui, e molti altri sognano di poterlo fare. Una speranza disperante. Ecco, una linea di questo progetto è il Sunnistan, cioè il progetto di unire tutte le popolazioni, cioè chi segue la componente sunnita dell'Islam. La creazione di un Sunnistan di fatto va inquadrata nell'inevitabile rimaneggiamento della carta del Medio Oriente disegnata un secolo fa. L'IS si occupa del lavoro sporco, massacri e trasferimenti di popolazioni che faciliteranno la definizione delle nuove frontiere, rendendo queste regioni omogenee dal punto di vista etnico e religioso, portando a compimento una confessionalizzazione iniziata da lungo tempo. Per fare ciò ci si appoggia al potere più tradizionale, quello delle tribù. Al-Baghdadi non dimentica di dichiararsi membro della tribù dei discendenti di Maometto. Modernizzazione e arcaismo non sono inconciliabili. Il suo progetto si basa su una struttura statale flessibile, decentralizzata, che restituisce ai notabili locali il potere che era stato sottratto loro da Baghdad e da Damasco. Esso assicura la stabilità sociale interna focalizzando l'attenzione sulla dimensione societale, costumi e vita quotidiana, indirizzando la rivolta dei più poveri a una violenza e una violenza endemica verso l'esterno. E ancora un paio di estratti da questo opuscolo, Califfato e Barbarie, che appunto descrive come il califfato fu un esito delle primavere arabe, perché raccoglieva comunque la protesta verso la corruzione di certe dittature, diciamo, di quella regione, e appunto però in una maniera regressiva di ritorno a uno stato, fra virgolette, etico, ecco, cioè tra virgolette, nel senso che è una etichetta nostra culturale, no? Ovviamente. Allora, secondo alcuni teologi musulmani, numerosi segni, a cominciare dalla guerra in Siria, provano che la fine dei tempi, l'ora della lotta finale contro Satana, si sta avvicinando. La restaurazione del califfato caduto nel 1258 in seguito alla presa di Baghdad da parte dei mongoli si iscrive in questo quadro e rappresenta la cristallizzazione di un antico sogno. In aree ampiamente secolarizzate come la Francia, tutto ciò sembra una follia, eccetera, eccetera. Eppure la religione non è mai esclusivamente e nemmeno particolarmente spirituale. È egualmente politica, culturale, economica e militare. È un quadro sociale che in certi paesi può prendere forme assai concrete. Ad esempio, la ripartizione dei quartieri in una città in funzione della confessione religiosa, vedi Beirut o vedi anche Belfast in Irlanda. Ecco, e niente, questo era un po' il contenuto di questo opuscolo. e poi appunto si dilungava anche su una prospettiva di femminismo, cioè tutta una serie di analisi forse riferite anche al dibattito, cioè alla situazione, così, al contesto francese, che magari qua ci interessano anche poco. Comunque ecco, il punto era questo bisogno, diciamo, di una visione, bisogno di una visione da parte degli sfruttati, e il califfato sicuramente questa visione è stato capace di offrirla a vasti strati, sia di sfruttati appunto arabi dei paesi del vicino oriente, sia anche gioventù non strettamente, ecco, diciamo proletari, abitanti nei nostri così stati europei. E mi sembra che questo è sufficiente per il Califfato e Barbarie. Vediamo se riusciamo ancora, dopo un attimo di pausa, a parlare di Aaron Bushnell. Di nuovo qui in voce, così purtroppo stasera mi sembra, almeno quella mia percezione, poca musica, tante chiacchiere, perché come sempre succede in questi casi, si pensa di non avere abbastanza cose da dire, invece diventa sovrabbondanti. Volevo parlarvi questa sera Azzarnese Magnetics, di un fatto importante, di una cosa importante che è successa, insomma, di questo evento che da decenni non si vedeva negli Stati Uniti, non perché siano più importanti degli altri, ma per il ruolo che hanno nel genocidio di Gaza. Un militare, un aviatore dell'aeronautica degli Stati Uniti, ha progettato e ha messo e ha portato fino in fondo un'azione molto radicale, cioè di darsi fuoco davanti all'ambasciata israeliana in segno di protesta verso il massacro, il genocidio palestinese. Io questa sera, nel tempo che ci rimane, volevo evidenziare questa cosa su questa vicenda di cui i media, quelli mainstream, hanno per lo più parlato in termini così, se ne hanno parlato in termini, a parte, non so, forse il Manifesto, ma gli altri o lo hanno taciuto oppure hanno insinuato che si trattava comunque di una persona con dei problemi, diciamo, di equilibrio. Però noi interessa qui un altro aspetto, cioè c'è questo aspetto di censura, ma c'è l'aspetto della prospettiva, diciamo, della tensione che come anarchici caratterizza ecco le nostre condotte per chi lo è, no? Il fatto che un soldato si non solo si renda protagonista di disertare dal suo esercito, ma addirittura di sacrificarsi, cioè abbia una prospettiva, oltre che di sentirsi in colpa, anche di giungere ad autosopprimersi, è molto importante, ma perché questo consolida, diciamo, la prospettiva che come anarchici dobbiamo avere di un cambiamento radicale sempre possibile nell'esistenza, cioè che ognuno è padrone radicale, diciamo, della propria vita, che può cambiarne il senso in ogni momento, in ogni istante, che la vita non è costituita da una sommatoria di successi in successi dettati dal sistema, cioè che non si costruisce come una carriera la vita è una diciamo è un'entità che si definisce giorno per giorno nella vita di ognuno, sì, nel trascorrere il tempo di ognuno, ma voglio dire, si determina ogni giorno in maniera imprevedibile, e il fatto che addirittura un militare possa cambiare di 180 gradi la sua, sì, completamente la propria prospettiva, è per noi molto importante. Non è prettamente il caso di Aaron Bushnell, in quanto era comunque un ragazzo, un 25enne, un uomo, insomma, un giovane uomo che aveva maturato una radicalizzazione ed era un anarchico, per quanto fosse anche un militare. E ci sono state pubblicate le memorie e i ricordi dei suoi compagni, di chi lo ha condiviso con lui un percorso, che vado così, cerco di leggervi degli stralci. Ah sì, allora, questo è come un'introduzione, sì, cioè sul fatto è semplice cercare, ecco, non ve lo ribadisco, cioè non ve lo ripeto, non ricostruisco, ecco, il racconto di come è successa la cosa, perché è facilmente reperibile, come anche questo testo che adesso vi leggo, ma volevo, ecco, rendere così un po' interessante questa cosa, il fatto che Aaron appunto, come Aaron ha raccontato ai suoi compagni in un gruppo di mutuo soccorso di San Antonio, è cresciuto in un'enclave bianca, conservatrice e cristiana a Cape Cod, Aveva 18 anni quando Donald Trump è stato eletto. Si è arruolato nell'aeronautica militare nel 2019. Mentre era nell'aeronautica, si è approcciato alla politica anarchica attraverso un processo di autoformazione. Nel febbraio 23 Aaron ha preparato un documento per aiutare questo gruppo di mutuo soccorso di Sant'Antonio a farlo diventare più coeso. Come ci ha raccontato un altro partecipante del gruppo, Aaron ha cercato di formalizzare e maturare alcuni dei nostri metodi di organizzazione e ha ritenuto che la discussione profonda e aperta fosse un primo passo fondamentale per costruire una fiducia a lungo termine. Ha creato un elenco di domande in modo che il nostro gruppo di persone di sinistra mal organizzate si occupasse di mutuo soccorso e iniziasse una conversazione con le altre persone, cioè che si proiettasse anche all'esterno della realtà, no? Non fosse solo autoreferenziale. Nelle sue risposte a queste domande Aaron dichiarava: sono un anarchico, il che significa che credo nell'abolizione di tutte le strutture gerarchiche di potere, in particolare del capitalismo e dello Stato. Considero il lavoro che facciamo come una lotta nella guerra di classe, guerra che la classe capitalista intraprende contro il resto dell'umanità. Questo indica anche il modo in cui voglio organizzarmi, poiché credo che qualsiasi struttura gerarchica di potere sia destinata a riprodurre le dinamiche di classe e oppressione. Pertanto voglio impegnarmi in forme di organizzazioni egualitarie che producano strutture di potere orizzontali basate sull'aiuto reciproco e sulla solidarietà e che siano in grado di liberare gli esseri umani. Sono favorevole a un processo decisionale basato sul consenso piuttosto che a una governance democratica o basata sul voto. Sono sempre stato infastidito dalla realtà delle persone senza tetto, anche quando crescevo in una comunità conservatrice. Sono arrivato a credere nell'importanza delle politiche di solidarietà e considero la questione delle persone senza tetto come un fronte importante nella guerra di classe, che deve essere combattuta per il bene di tutti noi. Ritengo che aiutare i miei vicini senza casa sia un obbligo morale, una questione di giustizia sociale, una questione di buona pratica. Se oggi non sto dalla parte di chi è più emarginato di me, allora chi sarà domani dalla mia parte? Considero le persone senza tetto forzate si intende dalla struttura capitalistica a essere senza tetto, come un fallimento della società e un crimine contro l'umanità. Credo che nessuno meriti di essere privato delle necessità umane di base. Credo che la condizione involontaria delle persone senza tetto debba essere abolita. Ecco, poi ci sono questi racconti di tre suoi amici. Lupe. Aaron vivrà per sempre, lo so, perché tutti coloro che sono stati amati da Aaron porteranno un po' di lui. Nella loro anima, e tutti coloro che hanno assistito al suo sacrificio lo porteranno nella loro mente. Aaron amava la vita, sapeva che rinunciando a essa poteva dare al popolo palestinese la possibilità di conservare la propria. Aaron ha cambiato in modo permanente il tessuto del vostro essere. Lo sapete, perché per il resto della vostra vita dovrete lottare pensando cosa sacrificherete per la liberazione degli altri. Il mio amico ha detto che Aaron, ovunque andasse, piantava alberi. Immagino questi semi piantati nei nostri cuori e nelle nostre menti. Germoglieranno e cresceranno fino a diventare alberi giganti e forti, con radici profonde, in grado di affrontare le molte battaglie che ci attendono su questo pianeta in fiamme. Rimarranno in piedi come Aaron finché non potranno più farlo, ma a quel punto i loro semi saranno stati piantati nei nostri cuori, nei cuori dei nostri cari. E cresceranno anch'essi come alberi, continueranno questa lotta fino a quando nascerà il bellissimo mondo che Aaron sapeva che meritavano. Ok. C'è un altro amico che si firma E descrive così in maniera stringata come Aaron provenisse da una fosse cresciuto in una setta, in una congregazione cristiana, dove appunto lo obbligavano costantemente a impegnarsi nel lavoro non retribuito fin da piccolo, perché aveva una neurodivergenza, era affetto da una neurodivergenza e che interferiva con la sua capacità di svolgere i compiti, quindi doveva rimanere sempre impegnato e ha dovuto imparare a mascherarsi fin da giovane. Sentiva che la sua infanzia gli fosse stata rubata. La Community of Jesus era questa congregazione del Texas, quindi una roba micidiale. Questa esperienza, appunto, tutto in questa Community of Jesus, tutto era motivato dalla vergogna, dal senso di colpa e dalla minaccia di ostracizzazione. Questo lo ha colpito profondamente e lo ha plasmato in modo fondamentale nel modo in cui poteva o non poteva impegnarsi nel costruire delle relazioni con le persone. E il motivo per cui ha lasciato il San Antonio Collective Care, sì, questa comunità, per proteggersi, sono stato incredibilmente fortunato, dice, e a instaurare un rapporto con lui. Aaron vedeva la gerarchia e l'ingiustizia e il suo ruolo in questi sistemi e odiava essere una parte integrante in essi. Si sentiva molto in colpa a causa della situazione in cui era cresciuto. Il senso di colpa era l'emozione principale attraverso la quale affrontava la maggior parte delle cose. Mi dispiace molto che non sia stato in grado di guarire completamente da questa situazione prima della sua morte. Amava tanto i suoi gatti e le contraddizioni di possedere qualcuno che si ama gli pesavano molto. Pensava costantemente su come accudirli al meglio e a barcamenarsi in questo rapporto di dominazione, di controllo totale della loro attività. Ho visto che questo lo angosciava sinceramente. Aaron si rifiutava di pronunciare parole come pazzo, folle o sfigato a causa delle loro radici abiliste, e mi rimproverava costantemente per l'uso della parola sfigato. Non diceva la parola cazzo perché vedeva in essa le radici della misoginia e nell'etero patriarcato. Va bene, queste erano i ricordi di questo compagno da parte di chi l'ho conosciuto. Volevo ancora ultima, poi ci salutiamo, una notizia relativa sempre a questa vicenda di Aaron Bushnell, che volevo commentare ancora, ma magari ci sarà occasione come sempre in futuro. Gruppi di veterani contro la guerra fanno eco alla richiesta di Aaron Bushnell di un cessate il fuoco a Gaza. La rabbia per la strage di civili a Gaza ha galvanizzato alcuni veterani che hanno vissuto da vicino le disastrose guerre statunitensi in Iraq e Afghanistan. Quando Aaron Bushnell, 25 anni, membro dell'aeronautica, si è tolto la vita davanti all'ambasciata israeliana a Washington lo scorso febbraio, le linee telefoniche dell'organizzazione antiguerra Veterans for Peace hanno iniziato a accendersi. Membri dell'esercito in servizio o in pensione da poco chiamavano per dire che erano turbati dall'atto di autoimmolazione di Bushnell. Molto di loro avevano provato in privato la propria angoscia e i propri dubbi sul sostegno degli Stati Uniti alla guerra a Gaza. Abbiamo ricevuto molte telefonate da parte di veterani in servizio attivo e da poco congedati che ci parlavano del loro personale disgusto per la nostra politica estera alla luce dei recenti avvenimenti e di come questi li stessero colpendo psicologicamente, ha dichiarato Mike Ferner, direttore del Veterans for Peace. I Veterans for Peace si sono mobilitati per la guerra israeliana a Gaza, organizzando proteste in tutto il paese e chiedendo un cessate il fuoco immediato. Dopo la morte di Bushnell per autoimmolazione in una protesta in Oregon, i veterani hanno bruciato le loro uniformi in omaggio all'aviatore deceduto e per manifestare la loro opposizione alla guerra. La rabbia per la strage di civili causata dalla guerra, che arriva dopo due decenni di disastroso coinvolgimento militare degli Stati Uniti nella regione, ha galvanizzato alcuni veterani che hanno vissuto questi conflitti da vicino. È giusto dire che i traumi psicologici delle persone vengono nuovamente attivati da ciò che vedono nei telegiornali, ha detto Ferner, soprattutto per coloro che hanno prestato servizio in Iraq e in Afghanistan e che sono già passati attraverso il tritacarne dell'esercito americano. L'inferno sulla terra creato dall'uomo, un medico canadese in missione medica, gli Stati Uniti sono coinvolti evidentemente, dice l'articolista, e hanno fornito supporto a Israele, ricostruiscono insomma un po' il quadro. Molti veterani militari che hanno sacrificato la loro salute fisica e mentale in due decenni di disastrose guerre militari statunitensi in Medio Oriente sono infuriati per il continuo spreco di vita, risorse e credibilità morale degli Stati Uniti nella regione. Dopo la morte di Bushnell, David Fritz, che ha servito come ufficiale dell'aeronautica per 28 anni, si è recato a Washington per partecipare a una veglia sul luogo dell'autoimmolazione di Bushnell. In qualità di ex capo arruolato nell'aeronautica, Aaron sarebbe stata una mia responsabilità, ha detto Fritz. Come ufficiale sarei stato io a controllare che stesse bene, quindi la notizia della sua morte mi ha colpito molto. Quando ha lasciato l'esercito, Fritz ha lavorato nell'attivismo contro la guerra come parte dell'Eisenhower Media Network, un gruppo di ex ufficiali che criticano la politica estera degli Stati Uniti. È anche autore del libro, eccetera. Ecco, quindi questo ecco, era il contributo di questa vicenda che ha appunto suscitato un'ondata di sdegno e di senso di colpa anche in altri che hanno portato la divisa e sono tornati con le ossa rotte dai vari conflitti. Sarebbe auspicabile anche questa reazione anche nei militarazzi nostrani, ma sembra, insomma, fino adesso non è filtrato granché dalle loro esperienze, dico, in Afghanistan e in Iraq. Questa cosa era solo una ultima cosa, volevo dire, questa vicenda di Aaron è significativa, appunto, ribadisco il concetto, perché la leva del senso di colpa, cioè far leva su questo discorso, però che non, giustamente non deve portare al sacrificio, cioè non è una strada obbligata passare dal senso di colpa al sacrificio, cioè all'autodistruttività. Il discorso del senso di colpa è importante perché comunque è una spia, insomma, è importante, un elemento importante che può ossessionare, può tormentare, insomma, ma è un segno di essere vivi, ecco, che non siamo degli automi, che ci passa tutto come l'acqua, che i fatti, insomma, che succedono anche a migliaia di chilometri, che non ci riguardano apparentemente in maniera diretta, portano dei cambiamenti anche nella nostra esistenza, nella sopportabilità, insomma, che abbiamo della vita che facciamo. Per questa sera ci fermiamo, insomma, io mi fermo qua, l'appuntamento è per il prossimo giovedì e lascio la parola all'altra parte del vetro per i saluti e per i vari gruppi che sono andati in sottofondo. Chilometri e chilometri di terre le città, te non posso fare l'orto che mi prendo. questa modica per il loro guadagno, con questa pena presa pura storica per i barbettare con insicurezza le loro motivazioni a favore. I brani che abbiamo ascoltato in sottofondo erano tratti dalla compilation Non un sasso indietro, che era uscito come doppio CD. E poi, tra un intervento e l'altro, abbiamo ascoltato i Crucifix, band americana, e l'album era The Humanization, uscito nel 1984. E andiamo ad ascoltarci un ultimo pezzo di questi Crucifix. E un saluto a tutti, ciao! Take the road, take the road, take the road, take the road.